non sei il tuo lavoro. Non sei la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del mondo. Facci un po' di cominciamo la diretta, Sei pronto? Come diretta? Non avevamo parlato di diretta. Ma come no, te lo sto dicendo da una settimana. Oggi è diretta, viene l'ospite. Va bene, allora mi raccomando, ti sei preparato? No, non sono pronto, non sono pronto. Cazzo, sei tu, sei un fallito. Sei patetico. C'è una settimana che lo stiamo dicendo. Arrivi a 5 minuti prima della diretta e me lo fai. No, no, no, no, no, no, no, no, me ne vado, basta, ciao, ma allora tu e la puntata, ciao. Sei patetico. Siamo in diretta? Il microfono è aperto, ragazzi, qualcuno? Benvenute amiche e amici a una nuova puntata di Eclettismi spaziali. Sono tropicali. Non sono andato, l'ospite, ragazzi. Benvenute a tutte e a tutti dal vostro DJ Malora, oggi alla conduzione di questo puntatone di Eclettismi Spaziali Sudtropicali da Radio Forte. E oggi puntatona speciale, tanti ospiti, tante voci per parlare di uno dei temi a noi più cari, e cioè il fallimento. Volevamo parlare del fallimento come momento di crescita, ma in realtà dopo un momento di crisi ci siamo resi conto che il fallimento è soltanto un momento di merda. Il nostro amico Johnny Jog, che doveva partecipare alla puntata, purtroppo è dovuto andare via, ma abbiamo tanti altri ospiti con noi oggi. Abbiamo DJ Per Caso. No, non c'è neanche DJ Per Caso. Aspetta. Ah no, ma chi vedo entrare? Chi vedo entrare dalla porta? No, scusate, non è DJ Per Caso, ma oggi è con noi un ospite speciale, veramente speciale. E benvenuta a Francesca. Francesca, no, Cristina, mi ha chiamato Johnny, mi ha detto vieni. E io sono arrivata perché dovevamo chiacchierare e lui mi ha mandato. Ah, ok, Cristina, ciao Cristina, ma ciao. Mi sembra di conoscerti, di averti già visto. Ma come ho fatto a non pensarci? Ma tu sei, sarai mica... Chi? Non so. Chi, ma si sente? No. Lo storoso peloso qua. Sarai mica... Sì, sono io. Sì, sì, sono assolutamente io, ma chi? Ma sarai mica Maria Violenza? Ti abbiamo... Sì, in realtà sì, però sai, io sono, prima sono Cristina, mi ha chiamato Johnny, mi ha detto vieni Cristina, poi sai, non sapevo chi trovavo e questo è. Allora ragazzi, quest'oggi, nonostante l'inizio puntata un po' farraginoso, non so chi di voi... Un po' fallimentare. Non so chi di voi era collegato... Qualcuno, credo DJ per caso, che non si trova in questo momento, qualcuno dice che è al bagno, ma probabilmente ha lasciato i microfoni aperti. Ma che piacere avere qui con noi un'amica, ma che dico un'amica, Cristina, ma che dico Cristina? Maria Violenza. Ma che dico? Dico Maria Violenza, Pippo Baudo mi pare. Ma soprattutto, ma che dico? Allora amici, bene amici, come diceva il nostro amico DJ Bambolo, oggi abbiamo una sorpresa per tutti voi che ci seguite nell'etere, ma anche nell'Ethernet. Nell'Ethernet, cioè sì. Nell'Ethernet. No, Radio Sebac. Ce l'ha male Radio Sebac. Ah, ce l'ho per Radio Mazza, che ragazzi, altro che fallimentari sti ragazzi. Appunto, Gri, oggi la puntata è un po' complessa, neanche noi sapevamo come prenderla, ma l'abbiamo presa nel solito posto, al solito modo, diciamo. Vabbè, no, è così che va fatto. Oggi volevamo parlare di come i fallimenti ci hanno fatto arrivare dove siamo, ma onestamente questa settimana ho cambiato idea rispetto alla puntata, cioè se mentre prima pensavo che... Che è successo? Ah no, pensavo che il fallimento fosse un momento di crescita e invece non mi hanno pagato, tipo... E ti senti un fallito e quindi è così, vabbè, ho capito. Ma guarda, io un po' ci ho pensato a sta storia del fallimento e devo dire che era arrivata alla stessa conclusione. Nel senso, la parola fallimento è anche una parola che non manco la uso, ecco. Io faccio degli errori e uno prova a correggerli, imparare le cose. Poi ho pensato anche che il fallimento è una cosa soggettiva, nel senso c'è gente che pensa che ne so, non fare una famiglia sia fallimentare, non comprarsi una macchina è una cosa fallimentare, non avere il lavoro della vita non è fallimentare. A parte queste cose, per dire, non mi frega cazzo, quindi bisogna vedere, per dico che è soggettiva la storia, quindi non mi sento una fallita, forse ho fallito in delle cose, ma ho pensato di trovarci un ricavo, capito? Spero di averci imparato qualcosa e quindi ho fatto dell'altro, ho fatto della musica a forza di fallire, insomma, quindi va bene così. Ah no no, ma il discorso era proprio questo, noi eravamo partiti dicendo guarda che comunque io non sarei dove sono se non avessi fatto i miei sbagli, se non fossi crollato, se non mi fossi rialzato non sarei così forte. Il tema della puntata era questa. Se non che ci è sfuggita di mano, come al solito, ci siamo ritrovati a pensare che alla fine il fallimento è sì un momento di crescita. E per esempio una persona col macchinone, con la famiglia, a me mi pare più fallito di quello che sta chiedi i soldi sotto la metro. Ma anche per me, però sai, poi per quello dico è soggettivo, per lui è al contrario sicuramente, quindi poi sai, essendo umanamente una cosa soggettiva, allora lì si annulla, non è valida. Thank you. domanda dal pubblico. Ciao Maria Violenza, mi sono scritto la domanda, è una citazione di un Kim Gordon. Allora dice: la gente paga per vedere altra gente che crede in se stessa. Parliamo di live, concerti. Significa che più alta è la probabilità di fallire in pubblico, più la cultura dà valore a quello che fai. Insomma, questa cosa di stare su un palco, di mettersi proprio in gioco, poi sei tu da sole, cioè... una matta. Quando ho cominciato a mettermi su un palco da sola, che ormai sono quasi 9 anni fa, ho fallito un sacco di volte, un sacco di cagate, un sacco di errori. E più sbagliavo e più entravo nell'ansia di sbagliare, più sbagliavo quella cosa lì. E poi a un certo punto da lì ho imparato che no, cioè nel senso, quella è poi una cosa che vivo io. Il pubblico la vive diversamente, fallimentare, anzi per niente. Quindi mi piaceva tantissimo quando io sbagliavo, mi incazzavo, andavo a fare in culo, calciavo la brava, fatto apposta. No, ma infatti poi alla fine, perché all'inizio c'era tutta questa cosa del loop in live, che era tipo un travaglio per arrivare al pezzo finale, quindi quella cosa lì, perché nel frattempo io stavo imparando a usare la loop station a tempo, a far usare tutte le mie macchine, che sono vecchie, tutte a te, farle marciare tutte insieme. E quindi quella parte lì, che all'inizio anche da amici mi è stata un po' criticata, tipo no, troppo, perdi troppo tempo, è troppo lunga quella parte, e io invece là mi sono ostinato e ho detto: ma perché, scusate, qual è? Che quando tu guardi un concerto il tuo tempo come c'è? Deve essere impiegato secondo il musicista, non secondo devo aspettare o non aspettare. Io sul palco faccio come cazzo mi pare. E quindi da lì il fallimento è diventata facente parte dello spettacolo, per cui poi la gente invece, sì, la gente si entusiasma quando parto io da una drum machine e finisco a un loop finale per farci un pezzo e rimangono così, penso diventa tutto il contrario, quindi non direi che è fallimentare la storia, quindi me la sono giocata così alla fine, ho imparato una cosa. Queste Olimpiadi. Deluso, ma d'altronde è un po' la copertina di una carriera lunga 15 anni e piena di delusioni, con una qualche lucina qui e là. Fa parte della lunga pila di obiettivi non raggiunti e niente. Ho ingoiato tanto schifo in tanti anni di sport, infortuni, delusioni varie, problemi personali. No, vediamo che gadget riusciamo a rubare nei prossimi giorni da portarci a casa. Ah, questo mi sembra un classico esempio di fallimento, però scusa, contraddizione tutto quello che abbiamo detto finora, è che questo non ha imparato un cazzo, alle Olimpiadi ci continua ad andare, non ha imparato a ritirarsi, starà a merda, capito? Quindi se non cavi un ragno dal buco, allora forse è lì un fallimento, quindi direi che lui ne è un po' l'esempio. Sì, infatti l'abbiamo messo per primo perché rappresenta noi stessi, forse io e il DJ per caso, forse ci sentiamo un po' così, cioè in questo periodo riusciamo a vedere soltanto la collezione delle cazzate che abbiamo fatto. Senti Cristina, ma tu sei venuta qui oggi e ci hai portato un regalo. Yes, vi ho portato un inedito, un pezzo che deve ancora uscire, perché comunque chiaramente questa pandemia ha reso le tempistiche della musica infinite, quindi è un disco che sarebbe dovuto uscire 2 anni fa, invece se Dio vuole esce sto maggio, e quindi questo è un inedito che vi ho portato, quindi non è mai uscito, eccolo qua, lo ascoltiamo. Grazie Maria Violenza. Il pezzo era Scioglilingua. Yes. Dici un po', qual è lo scioglilingua che hai, che non si è capito bene? Allora, lo scioglilingua sarebbe a ghinocchioni cugghiano cottoni, essendo cottia cottoni cugghia. Che tradotto letteralmente significa in ginocchio raccogliendo cotone, essendo con te raccolgo cotone. Solo che gli scioglilingua hanno questa prerogativa che ti devi sbagliare e dire una cosa del cavolo. In questo caso sarebbe coglioni invece di cotone. E io niente, siccome la trovavo interessante, l'ho musicata in maniera autistica, come faccio con un sacco di roba, così per correggere il fallimento mentale. Io vado di autismo, capito? E quindi faccio queste opere qua. Questo è quanto. Diciamo che è come un così, un loop mentale, capito? Quindi non stai lì nel tuo loop, non puoi sbagliare, il traumatismo è un po' così. No. Non arriva, capito? Cioè, sì, no, ma con la bolla è fine annata. Cioè, la cosa fantastica è che anche se arriva, tu stai talmente al loop che sai che è successo. È così, e quindi ecco, sciogli lingua. Testimonianza di un amico a 5 sportelli. Io non sono un fallito, ho realizzato i miei desideri, che poi è uno, essere una persona importante. Per farlo ho capito che dovevo comprare il BMW, e adesso il BMW è la mia casa, dormo in macchina. L'altra casa non riuscivo a pagare l'affitto, dovevo pagare la rata della macchina, e la mia famiglia non ha accettato di vivere in macchina con me. Mi ha lasciato mia moglie e con i miei figli ora vive da sua madre. Mi ha detto così, ma sono la persona più felice del mondo. Mi dispiace per te, caro amico ascoltatore che dormi in macchina. Cosa ne pensi, Cristina, di questa vicenda? Ma guarda, lo so, ognuno dà il valore che dà, però direi che mischinazzo, questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Mischina assoluta, felice della sua BMW, chi lo sa, un picciolittati, vabbè dai, comunque. DJ Malora voleva salutare tutti gli amici che dormono in macchina, che ci ascoltano, che stanno dormendo in macchina in questo periodo. Un'esperienza che in un modo o nell'altro abbiamo fatto tutti per un tempo limitato. Ecco, a voi che siete in macchina a tempo indeterminato, un grande abbraccio. Arriva forte quando mi ostino a volere che le cose vadano come vorrei, nonostante tutti i segnali dell'universo che mi dicono lascia stare. Tipo quella volta che avevo deciso che basta, me ne dovevo andare da quella città, dovevo cambiare quel lavoro, dovevo lasciare quella casa. E mi ritrovai in una città meno ospitale della prima, senza lavoro, nonostante facessi un colloquio a settimana, e una nuova casa in cui tensione e rancore erano menù pranzo e cena. Tornai nella prima città, ritornai al mio vecchio lavoro, cambiai casa e andò bene così, finché, dopo tempo, il vento del fallimento non mi portò verso nuove avventure. Cristina, si capisce che non sei del sud, che si capisce che sei del sud. Com'è andata? Da quant'è che sei a Roma? E perché odi il sud? Ma non è vero, io non odio il sud proprio per niente, anzi, come vedi, ne faccio nei miei pezzi proprio una bandiera, quindi no, non odio il sud, però è stato difficile vivere al sud, soprattutto in quegli anni 2000, avevo 27 anni, sono 16 anni che abito a Roma e me ne sono andata perché a Palermo non avevo una lira, mi sono rotta le palle di stare con mia madre, quindi mi sono trasferita a Roma e niente, la cosa più figa che facevo era andare continuamente ai concerti, lavoravo in una serigrafia, quindi la mia vita a Roma è cominciata così. Infatti il fratello della mia coinquilina, quando mi ha conosciuto, un ragazzo calabrese, mi ha detto: ma tu che ci sei venuto a fare qua a Roma? Non sei venuto a studiare? Perché abitato da sua sorella, tutti gli altri, tutti universitari, io tutti che studiamo, dicevo, no, io studiare mi si dia, io ho detto, non c'ho voglia di studiare, io sono da qua perché a Palermo non c'è una lira, qua si fanno due soldi, si sentono i concerti, forse posso viaggiare. E poi infatti da lì è arrivata la musica, il fanfulla, un sacco di cose nella mia vita che hanno confermato che alla fine questa emigrazione non era proprio un fallimento, ecco. Diciamo che era una cosa abbastanza sensata, quindi senza dover necessariamente pensare al lavoro, alla macchina, a casa, tutte quelle storielle lì. È che mi scoccio proprio. No, tutt'altro, la musica, quindi era quello che mi interessava e quello che mi ha portato anche fuori dall'Italia, non intendi? Infatti l'album che sta uscendo ha un'etichetta. Di quale paese? La so io, la 3, la Svizzera. Esatto, della Svizzera. Etichetta Svizzera, si fa in tournée in Francia, ma mi trasferisco un po' all'estero, però rimango sempre a Roma, insomma faccio un po' così, un po' qua, un po' là, così, per evitare i fallimenti. Quando esco faccio finta, vado a prendere un caffè e faccio finta, fumo una sigaretta e faccio finta, dico due parole in una certa maniera e faccio finta. away from the newspapers and the crises and the chaos. Let's get away from the nuclear threat. Let's get away. Let's have a respite. How many moments do you have in your consciousness of, wow, this moment? Eh sì, DJ per caso. Faccio finta. È la prima volta davanti a un microfono, anche se DJ Malora non lo sa. Faccio finta. Cambio nome, cambio identità, cambio casa, cambio lavoro. Lavoro, questo è il 41esimo lavoro che faccio. Il DJ per questa radio, Radio Forte. Sì, mi piace la compagnia, penso di rimanere un po'. O almeno fino a quando qualcosa cambia, perché tutto cambia. Ho fatto tante cose. Il fattorino con partita IVA, il lavapiatti indiano a Londra, il giocatore di scacchi, anche il capitano di una nave da crociera. Poi mi hanno scoperto che non avevo... Insomma, mi hanno venduto come schiavo in una nave che raccoglieva gamberetti dalle parti del Vietnam. Insomma, poi da lì cosa, ho fatto esperienza come sindacalista corrotto. Ho fatto l'autista di politici corrotti. Poi... l'ultimo, prima di venire qui, per esempio, facevo l'infermiere, il reparto Covid. Poi una volta ho inoculato un qualcosa, un vecchio, insomma, vabbè, mi hanno cacciato di nuovo. Nuova identità, con i baffi, senza baffi, con gli occhiali, senza occhiali. Un fallimento dopo l'altro, una vita dopo l'altra, un DJ per caso. E comunque vi lancio il prossimo pezzo, visto che sono un DJ. Questi sono i Kleintier Schauchel con Italian Blood, Club Music. Buon ascolto. Sì, ho paura che finisca tutto questo. Più per la fine che farò io, per chi mi circonda, per mia mamma, i miei amici, il mio team, i fans. Comunque ci siamo fatti le ossa, abbiamo già fallito abbastanza. E nella vita si continua a fallire. E il momento in cui fallisci è il momento più vicino al successo. Se non hai fatto successo significa che non hai fallito abbastanza. Questo è Gali, un giovane. Ma che giovane, un giovane trapper, guarda, di questi, un ciappolone per fallire di sto macio. Ma che dice questo, macio? Incredibile. Si capisce che fa il trapper, che è una di quelle. Anch'io che faccio musica popolare, comunque ho paura, cioè, di mia madre, ecco. Più che altro ho paura di mia madre. Ma non lo so, guarda, mi sono solo investito un attimo in un musicista che... No, se mi sembra uno che alla musica ci pensa poco e niente, capito? Nel senso, pensi al fallimento, a tua madre, agli amici tuoi, ai fan, eccetera, eccetera, ma alla musica non ci pensi. Non la fa lui la musica. Gliela fanno, quindi. Lui c'ha solo paura di fallire ed è lì che è il momento del massimo successo. posso risolvere i suoi problemi, signore. Solo lei può. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Sì, questa è la sua risposta. La sua risposta a tutto. Se la faccia tatuare in fronte. La vostra rivoluzione è finita, signor Lebowski. Condoglianze. Gli sbandati hanno perso. Faccia come i suoi genitori. Accetti il mio consiglio. Si trovi un lavoro. Gli sbandati perderanno sempre. Mi ha sentito, Lebowski? Gli sbandati perderanno sempre. Ma com'è andato l'incontro con il signor Lebowski? Molto bene. Il vecchio mi ha detto di prendere il tappeto che preferisco. Fuori tema è il fallimento, fuoco fatuo simula pentimento, ma in fondo per giocare bisognava staccare per un salto, anche se al tappeto c'era il buio, la battuta fuori tempo, andare, amare, mirare, ammazzare, incapace di colpire. Il fallimento è fuori tema, ma lo apprezzo perché è bello. La prima differenza è il rumore, c'è il tonfo definitivo. C'è il silenzio di un inciampo maldestro, meglio un ballo mascherato, senza celebrità. Ho pensato al rossore, provato imbarazzo, usato anestetico, come tenersi la testa tra le mani se mancano le mani. Hasta siempre libertà. Le pêche à bon bon son, carras à cordon, t'obliga à fazer bom bom bom. Para quem disse mais, fala então com os meus pais, tudo que sou eu faço, não troco jamais. Porque o ritmo é rei, e o groove é a lei, ditadura é a música. Hey! Più spettacolare che ci apprestiamo a vedere è quello del capitalismo neoliberista, e questo grazie a una piccola regola, la tendenza zero del saggio marginale di profitto. Che significa? Significa che lo sfruttamento è sempre meno conveniente, e per ovviare a questo piccolo inconveniente il capitale ha dovuto estendere questo sfruttamento al nostro tempo e ai nostri corpi. E la digitalizzazione degli ultimi 30 anni ha reso il capitalismo di crisi sempre più rapido, sempre più avviluppato in cicli di salita e discesa che nulla fanno che concentrare la ricchezza sempre in meno mani. Però c'è ad est un modello diverso, la nuova via della seta, che probabilmente proporrà una visione alternativa e un tipo alternativo di sviluppo che potrebbero essere la pietra tombale del capitalismo come lo abbiamo conosciuto. Dios exige que vaya a volver a darle amor y bailar tocando. un fallimento occorre spirito di resilienza, ovvero voglia di fare. Ma se questa voglia è finita? Tranquillo, c'è voglia, Vix. Pratici cartoni da sciogliere in bocca ti faranno tornare la voglia di mandare tutto a scatafascio e iniziare un nuovo percorso fallimentare. Per i più disillusi c'è Voglia Vix Plus. Dona piacevoli allucinazioni che mostrano il tuo prossimo fallimento, ma ti apparirà più bello e colorato. Voglia Vix, chiedi a Ecletismi. Inferno. Buonanotte, amore. Ti voglio bene. Beh, ragazzi, non so voi, ma a me Little Miss Sunshine mi fa scattare la commozione cerebrale, comunque. Cioè, no, addirittura vedere questa bambina, cioè, pensare al fallimento visto dalla parte dei bambini mi fa pensare al fallimento visto dalla parte del genere umano, dell'umanità. capito? Cioè, come se in realtà tutto quello che sta succedendo in questo periodo sia un piccolo ingranaggio del grande fallimento dell'Homo sapiens. Direi che sì, veramente. Direi che poi, tra l'altro, questa pandemia è proprio la dimostrazione di un fallimento totalitario. Vi ho fatto un discorso anche un po' egoistico finora, per essere così soggettivi, ognuno il suo nella sua vita, la BMW sì, la BMW no, eccetera eccetera. Però se dobbiamo guardare la cosa a livello globale, direi che il fallimento umano è bello grosso. Diciamo che quello ci possiamo curare così, di disintegrarci da soli, autoeliminarci una certa, tutti i zombie, che ne so. Insomma, sì, qual è il messaggio che vuoi dare ai giovani, Maria Violenza, che è il tuo nome? Ma guarda, nessuno, perché non sono proprio in grado, direi, di dare nessun messaggio ai giovani. Direi solamente che abbiamo già fatto abbastanza danno da soli, che se lo possono rendere conto da soli che di cosa siamo capaci di fare. Quindi da lì fallimento totalitario un po' lì c'è, ed è difficile da disconoscerlo, ecco. Quando la misura del successo è la dimensione del tuo pubblico, che senso ha? E gli piace mettermi in difficoltà con... No, che cazzo? Il successo dipende dalla dimensione. Dal numero. Numero, dai. Beh, devo dire che suonare davanti a tanta gente è una roba che ti fa soddisfazione, ma è troppo più emozionante suonare davanti a 10 amici miei. Cioè, quella cosa lì mi manda in tilt come niente. Suonare davanti a 3000 persone era quasi meno emozionante. Cioè, era figo, ma gli amici sono gli amici. Quando lo suoni a Fanfulla, al Forte, è tutta un'altra dimensione, un'altra importanza quella cosa. Eravamo lì. Lo so. E noi c'eravamo. Poi si stabilirà quale continente democristiano si dovrebbe venire in quale corrente, in modo che il dosaggio e la. Ragazzi, che dire, anche questa puntatona a me ha fatto emozionare, quindi anche quello che volevo dire non riesco a dire. Continua questo fallimento delle mie aspettative nei confronti di qualsiasi. Puoi solo ammettere di essere un fallito e ci convivi. E ci vediamo a Eclecticismi spaziali sud tropicali, giusto? Grazie. Disperate sogno, una vicina libertà.